nel vento una cantilena. Colori d'estate ritornano in me. Ritrovo immagini di noi e ti vedo ancora. Com'eri bella accanto a me. Sole intorno a noi, fantasia, per inventare nel sogno un'estate, sul nostro amore un vestito di sole, c'è ancora nel vento la cantina. Quello che il tempo ha lasciato di te. Ancora immagini di noi, ma tu non ci sei. C'è tanto sole e tu non ci sei.